A bordo campo di Dario Ricci. La mia vergogna era talmente tanta che io l'ho informata come prima persona della mia positività quando ero positivo. Appena mi hanno chiamato da Londra per dirmi che è arrivata una notifica che io sono positivo all'EPO. Informato lei, poi i miei genitori, la mia manager e poi ci tenevo che siete informati prima che lo sapeste. Il caso Schwarzer, il coinvolgimento probabile, eventuale, staremo a vedere, della fidanzata eccellente Carolina Kostner, tutto il marcio che sta uscendo fuori dalla nostra marcia, e mai come in questo caso il gioco di parole non strappa davvero un sorriso, la sostanziale collusione di federazioni, vertici dello sport italiano in controlli antidoping del tutto inefficaci o quantomeno spesso, molto spesso inefficaci. Ebbene, l'avete capito, oggi parliamo della lotta al doping qui a bordo campo, proviamo a fare il punto, proviamo a capire anche quale può essere il presente e il futuro della lotta al doping a partire proprio dalla stretta cronaca di questi giorni. E lo facciamo con il nostro ospite che saluto, il dottor Dario D'Ottavio, biochimico, per 4 anni componente della Commissione di Vigilanza sulla legge antidoping, ex consulente dei NAS, referente per la lotta al doping del Consiglio Nazionale dei Chimici e anche animatore su Facebook di un gruppo antidoping. Facciamo qualcosa, vi consiglio di vederla questa pagina perché si traggono tanti spunti di riflessione. Benvenuto, dottor D'Ottavio, a bordo campo. Buon pomeriggio. Allora, dottor D'Ottavio, domanda banale ma quasi d'obbligo. Se l'aspettava tutto il quadro che sta emergendo dal lavoro della Procura di Bolzano, che ancora finito non è, ricordiamo? Questi casi non sono nient'altro che la punta di un iceberg. Di un iceberg le cui dimensioni sono enormi, se poi si scende diciamo a valutare cosa accade in non soltanto in ambiente professionistico ma in ambiente diciamo dilettantistico, amatoriale e tra i più giovani. Direi che un punto focale proprio del discorso e che lei già mi fornisce l'assist per trattare è quello di una certa mancanza di una cultura sportiva, ed è chiaro che il doping sia espressione di questo, che però era radicata in alcuni difetti strutturali, no, di chi si avvicina allo sport professionistico. Uno di questi è quasi, mi viene da sintetizzarlo, la medicalizzazione spinta, cioè un naturale quasi abuso di farmaci, di integratori, come se non si potesse fare sport senza di quelle, anche a un certo livello. Sì, sono problemi interessanti. Infatti, guardi, la catena integratore, farmaco consentito, farmaco vietato, tossicodipendenza, è una catena purtroppo reale, ne abbiamo avute già delle esperienze. Quindi bisogna cominciare ad iniziare con un programma di formazione e di informazione dei giovani. Bisogna cominciare a ridare allo sport quelli che sono i valori che gli sono stati attribuiti e per cui diciamo esiste, perché in realtà se consideriamo lo sport come un elemento per fare incetta di medaglie oppure come è stato in precedenza per la formazione di un determinato modello politico, non andremo avanti. Bisogna cominciare a cambiare proprio mentalità ed affrontare questi problemi con un senso razionale. Possiamo sintetizzare dicendo che già l'aspirina inutile, l'antinfiammatorio inutile sono un primo passo, per carità, lontano dalla vetta, ma un primo passo sul sentiero che porta al doping, inteso come dipendenza farmacologica da un determinato prodotto. Decisamente, io non capisco perché per fare sport uno debba per forza assumere qualcosa, ma questo è contrario all'etica sportiva. I farmaci in particolare vanno assunti soltanto se c'è una patologia in atto, altrimenti sono un non senso. Non dimentichiamo che il farmaco deriva dal greco, che significa veleno. Questa è una delle prime cose che dovremmo prendere in considerazione. Poi c'è il discorso commerciale, vedo che gli integratori vengono spinti dal punto di vista pubblicitario in un modo non comprensibile rispetto all'efficacia poi tra l'altro che possono avere. E parliamo di integratori, integrare cosa? Casomai è reintegrare un qualcosa che manca, di cui si ha carenza, e questo è un altro elemento fondamentale che diciamo i profani, a cui i profani dovrebbero venire a conoscenza. Mi manca qualcosa, reintegro. Perché devo integrare? Certo, poi che se lo sponsor di una determinata manifestazione ha, diciamo, un legame con questo mondo degli energetici, degli integratori, eccetera, eccetera, diventa difficile non veicolare quel messaggio, no? Guardi, facciamo attenzione perché alcune sostanze, anche di integratori, noi le sottovalutiamo, no? Per esempio il ferro, integrazione a base di ferro. Forse noi non siamo a conoscenza che il ferro è un elemento tossico, è utile e indispensabile all'organismo, ma se assunto in quantità smodate e non necessarie, dato che non esiste un sistema di meccanismo attivo di eliminazione del ferro, accumuli di ferro possono dare dei problemi estremamente importanti. Lo stesso dicasi per esempio per il potassio. Il potassio sembra che sia un elemento così, prendiamo il potassio. Ma il potassio è un altro elemento che si è assunto in quantità smodate, e cosa che un profano potrebbe anche fare, e può dare origine a dei problemi cardiaci veramente importanti. Quindi bisogna diciamo stare molto molto bene attenti. Non consideriamo nel modo più assoluto che gli integratori siano completamente innocui. Il nuovo non è nulla, non è, dipende sempre dalla quantità. Il sale da cucina è un prodotto che noi utilizziamo normalmente, ma se proviamo a ingerire un etto di sale, 100 grammi di sale tutti insieme, i problemi cominciano ad essere seri, e voglio che inizi a passare questa mentalità. Alla fine di questa catena e nell'angolo oscuro dello sport a qualsiasi livello ci sono poi le vere e proprie patologie, no? Noi siamo abituati a ragionare sui casi più eclatanti, Armstrong, Schwarzer, eccetera, eccetera, la lista ormai è infinita, ma ben pochi ci raccontano che cosa succede all'atleta che arriva a trentesimo, ventesimo, quindicesimo e che fa ricorso a sostanze dopante. C'è un'infinita categoria di patologie con cui poi uno deve convivere e fare i conti per tutta la vita. Infatti, questo è, diciamo, un altro dei problemi purtroppo nascosti. Sono state portate all'attenzione una serie di patologie che tra l'altro non so quanto siano riferibili al doping o all'attività sportiva, di personaggi eclatanti. Perché? Perché il loro nome era un nome importante. E magari si trascura il ragazzo che su un campo di feria poi magari o viene riportato in ospedale o in situazioni molto gravi, questo passa in secondo piano, ma l'importanza è nettamente superiore rispetto ad altri fatti che con la clinica oppure con il doping ho dei grossi dubbi che abbiano a che fare. Guardiamo un attimo al futuro, professor D'Ottavio. Passaporto biologico che tanto ha contribuito laddove è stato rispettato, laddove la politica sportiva ha voluto utilizzare effettivamente questo strumento, ma che di fronte all'emergere del doping, della nuova frontiera del doping, il doping genetico, sembra già per paradosso uno strumento superato. Cosa ci aspetta in futuro? Come contrastare questo nuovo doping, il doping genetico? Addirittura ho visto che lei in altri contesti ha proposto un tris di passaporti che, intersecati fra loro, possono aiutarci a capire che tipo di atleta abbiamo di fronte. Sì, certo, quelli sono ancora allo stato embrionale, ma molto probabilmente ci troveremo di fronte all'atleta geneticamente modificato tra non molti anni. Oramai siamo in grado di poter, diciamo, decidere quante fibre rosse o quante fibre bianche debbano costituire l'organismo, di selezionare in base alla tipologia genetica, al genoma dell'atleta, che tipo di port o specialità sportiva debba fare. Basta pensare che sono più di 200 i geni che determinano l'attività sportiva. Qui ci aspetta veramente un lavoro estremamente difficile e complesso. Innanzitutto io la prima cosa che proporrei è quella che di iniziare ad attribuire la responsabilità dei controlli non al mondo dello sport. Secondo me il mondo dello sport ormai negli anni storicamente ha dimostrato grosse lacune nel gestirlo. Ci vorrebbe un ente terzo, probabilmente un ente che si occupi di salute. Cioè il problema doping va affrontato dal punto di vista della tutela della salute degli atleti e non delle risultanze sportive. Questo forse ci sfugge. Allora se iniziamo già a lavorare in questo campo, cominciamo ad utilizzare dei fondi per una ricerca seria, se cominciamo a costruire del personale specializzato per l'antidoping che contrasti i professionisti del doping, che è gente molto preparata, allora potremmo sperare ad ottenere qualche risultato. D'altro canto purtroppo il gap doping anti-doping è inutile, cioè, bisogna ammetterlo, cioè, forse ci sarà sempre, o almeno sin quando con il doping ci si guadagni e con l'antidoping ci si rimette invece. E beh, amici da bordo campo, avete capito perché questo gruppo su Facebook animato dal dottor D'Ottavio si chiama Antidoping Facciamo Qualcosa. Io aggiungo, facciamo anche qualcosa in più ognuno di noi, provando a cambiare dalla base questa cultura sportiva che poi sfocia in questo comportamento. Beh, dottor D'Ottavio, io intanto la ringrazio per essere stato nostro ospite a bordo campo, ma l'aspetto presto ancora a questo microfono, sperando di commentare l'arrivo di quel qualcosa in più che al momento ancora manca. Lo speriamo vivamente e speriamo che non sia solo una speranza. Grazie a Dario D'Ottavio per essere stato nostro ospite. Ora qualche istante di pausa, poi ancora insieme qui a bordo campo. A bordo campo. Nel mirino della UEFA. Beh, non si può dire che Inter e Roma i loro problemini in questo periodo non li abbiano, anche sul campo di gioco, ma anche e soprattutto viene da dire fuori. Perché nel mirino della UEFA i nostri due top team? Per il fair play finanziario. Tant'è che i nerazzurri, che hanno un rosso di bilancio di circa 85 milioni, rischiano addirittura l'esclusione dalle coppe europee. Per la Roma la pena sarebbe forse sicuramente meno grave, una sanzione pecuniaria, ma insomma anche i giallorossi devono stare parecchio attenti ai numeri in bilancio. E allora proprio di questo parliamo oggi a bordo campo col nostro ospite Claudio Sottoriva, professore aggregato di metodologie e determinazioni quantitative d'azienda presso la Facoltà di Economia della Cattolica di Milano. Benvenuto professor Sottoriva. Grazie mille. Ecco, professore, ma davvero c'è il rischio che l'Inter non faccia le coppe europee? Come stanno un po' le cose? Il tema del fair play finanziario è tornato di attualità in questi giorni, sia a livello di carta stampata, sia di interventi televisivi, semplicemente perché la UEFA, con una comunicazione di fine settembre sul sito istituzionale, ha comunicato l'elenco di alcune società per le quali l'UEFA ha avviato la procedura di ulteriore approfondimento per quanto riguarda i rendiconti ultimi trasmessi dalle stesse. In particolare, come accennava lei, sia l'Inter sia la Roma, quest'ultima come tutti sanno quotata in borsa, devono comunicare all'UEFA ulteriori informazioni relative al bilancio, perché molto probabilmente le prime verifiche di natura contabile sui bilanci e sulle semestrali trasmesse dai due club probabilmente potrebbero evidenziare degli scostamenti rispetto ai requisiti previsti dalla UEFA, soprattutto per quanto riguarda il requisito del cosiddetto break-even. Tradotto in linguaggio più semplice è il punto di pareggio, che tuttavia non è un pareggio tra virgolette tra ricavi e costi. Sì, un pareggio che farebbe comodo pure in classifica all'Inter di questi tempi, Un punto non si butta, ecco. Infatti è un pareggio di natura direi sostanziale, nel senso che è uno dei requisiti previsti dal regolamento UEFA per le competizioni europee, in cui sostanzialmente è stato individuato come modalità tecnica attraverso la quale favorire la crescita e il consolidamento delle attività caratteristiche delle società di calcio professionistiche. Certo, quindi un requisito irrinunciabile. Tra l'altro Inter e Roma, come sottolineava, sono comunque in buona compagnia, perché c'è anche il Monaco, il Besiktas, il Krasnodar, il Liverpool e lo Sporting Lisbona. In precedenza, ricordo, anche le sanzioni significative comminate a Paris Saint-Germain e Manchester City, due big, no? Infatti, la recente comunicazione a cui facevo cenno poco fa dimostra il fatto che l'insieme delle regole UEFA sul fair play, contrariamente a quanto qualcuno poteva pensare, ovvero sia che fossero delle regole che non sarebbero poi state concretamente applicate nella realtà dei singoli club e poi a livello di singole federazioni, in realtà la UEFA ha attivato le procedure di verifica dei bilanci attraverso la commissione tecnica costituita all'interno della UEFA stessa e, come è noto, è intervenuta prevedendo il sanzionamento delle due società, tra cui il Paris Saint-Germain, a maggio di quest'anno. Adesso, per quanto riguarda il nuovo set di società che sono sotto osservazione, per il momento, per quanto ufficialmente comunicato, si tratta di una richiesta di ulteriore documentazione, probabilmente perché la UEFA vuole avere qualche informazione in più su come determinate grandezze sono state contabilizzate all'interno dei bilanci dei club. Quindi, insomma, come sulle varie voci di bilancio, insomma, in questo momento magari i tifosi interisti stanno, tra virgolette, maledicendo quel Moratti che invece magari con una certa disponibilità di liquidità ha costruito un top team che però finanziariamente faceva fatica a stare in piedi. Probabilmente è proprio quello che l'UEFA sta facendo. Si evidenzia ovviamente il fatto che nell'ottobre dell'anno scorso c'è stato poi il passaggio di proprietà all'investitore indonesiano Toir, quindi il bilancio poi che è stato trasmesso alla UEFA, diciamo così, è ancora un bilancio sotto la gestione della famiglia Moratti. Per quanto riguarda le determinazioni, diciamo così, quantitative che la UEFA va a verificare, c'è un parametro molto importante che è quello su cui probabilmente sia la Roma sia il Liverpool probabilmente faranno riferimento, nel senso che il requisito di break even prevede come calcolo, quindi proprio come sommatoria di componenti di costo o di ricavo selezionati, e l'elemento incentivante e incoraggiante è proprio quello che alcuni costi e alcuni ricavi vengono esclusi dal calcolo di questo punto di pareggio, di questo break even. Sembra di stare a livello di Commissione Europea e rapporto deficit PIL, no? Qualcuno chiede di stralciare delle voci, insomma, anche nel calcio europeo. Esattamente, è proprio quello che lei ha detto. L'investimento nello studio di proprietà è agevolato, quindi non rientra tra le spese rilevanti per quanto riguarda il calcolo del break even. Sì, anche perché vale la pena sottolineare, mi corregga assolutamente se sbaglio, professore, che come si è discusso anche in questa settimana infuocata tra Juventus, Roma, interpellanze parlamentari in merito ai veleni derivanti dal big match di domenica scorsa, la solidità di una società fortunatamente ancora in un calcio pur con le sue stravaganze non la danno le decisioni arbitrali, i gol in fuorigioco eccetera eccetera, ma quelli che sono gli asset reali, ancor più dei calciatori e della rosa a disposizione, la fanno lo stadio di proprietà, la capacità di fare merchandising e business a livello internazionale, cioè quegli asset che contano anche per chi fa business totalmente diverso e strutturalmente più solido. È uno degli elementi che sta alla base dell'introduzione di queste regole sul fair play di tipo finanziario. perché non sono solamente requisiti di natura finanziaria, ma soprattutto di natura patrimoniale ed economica. L'obiettivo della UEFA è incentivare il raggiungimento da parte della società di calcio, da parte del football club, di condizioni di autonomia rispetto alla proprietà, e quindi senza dover ogni anno, al termine dell'esercizio, prevedere l'intervento del socio privato che ripiana le perdite. Insomma, del paperone che ci mette gli sghei, il denaro sonante per ripianare le perdite. Insomma, tra l'altro saranno monitorati altri 115 club, ad altri club che sono Bursaspor, Cluj, Astra Gheorghiu, Buducnost ed Ekranas verranno sospesi i premi in denaro. Insomma, per concludere, professor Sottoriva, si può dire che in questo settore Platini e la UEFA fanno davvero sul serio? Assolutamente sì, contrariamente a previsioni iniziali, sicuramente la UEFA sta credendo molto in questo insieme di regole, sta attivando canali istituzionali affinché anche i rendiconti di queste società siano quanto più armonizzati, sapendo benissimo che sui bilanci ogni federazione è in parte libera e in parte vincolata nel contabilizzare alcune operazioni, e sta intervenendo anche con il processo proprio sanzionatorio, con vari livelli di gradualità, dalla semplice ammonizione fino poi a eventualmente l'esclusione dalle competizioni europee, piuttosto che dalla penalizzazione a livello di punteggio. Ebbene, allora, Claudio Sottoriva, grazie per essere stato oggi nostro ospite a Bordo Campo, grazie per averci fatto capire un po' di più di questo financial fair play. Professore, la lascio a tornare a studiare questo dossier, che ci tolgo un'ultima curiosità: quante pagine sono il financial fair play? Sono circa 300. Ah, ecco, allora buon pomeriggio e buono studio, perché direi che ancora ce n'è parecchio da fare, no, professore? Infatti, grazie a lei, grazie agli ascoltatori, grazie mille. Beh, staremo a vedere allora che fine faranno Roma e Inter alle prese col financial fair play. Intanto anche per questo appuntamento di A Bordo Campo è tutto, un grazie a Filippo Aureggi in regia, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito radio24.it, da cui potete scaricare anche il podcast di A Bordo Campo e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend con Giovanni Capuano. A Bordo Campo torna come sempre domenica prossima alle 16.30 e il sabato mattina in replica alle 6.15. Ancora un saluto da Dario Ricci.